Una strana vita, quella delle clessidre. Servono solo a calcolare la scadenza di qualcosa. Ecco, ieri io mi sentivo la testa come una clessidra. Una clessidra che si stava svuotando e che stava scandendo la fine delle mie energie. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. 5 ottobre 2010, sono le 18:45, sono nella sala d'aspetto del mio medico al mio paese, che è come al solito il posto più insalubre della terra, che se non sei malato qua ti ammali per forza. Non so cosa esattamente, però è una roba, credo sia influenza, e probabilmente non aveva nemmeno senso venirci. Però il dottor Martelli è che mi dà sicurezza, mi dice due cose, poi magari non mi dà niente, però io lo so che adesso, dopo 10 minuti di chiacchiere con lui, magari non mi fa neanche dire 33, ma magari me lo fa dire 33, ma anche se non me lo fa dire, esco e sono più tranquillo. Magari non guarito, ma più tranquillo. È il 5 d'ottobre, sono le 18:47. Ieri mi si è chiarito, ma veramente in maniera lampante, che la gran parte del lavoro del medico è quella di starti ad ascoltare. Perché se viene da te uno che ha un'influenza e che potrebbe prendersi un'aspirina o una tachipirina, insomma qualsiasi roba che ormai si trova in farmacia, credo anche senza ricetta per lo più l'aspirina, se uno viene da te è che in realtà ha voglia di un po' di farsi rassicurare e un po' di raccontarti delle cose. E il dottor Martelli in questo è magnifico, perché lui rimane dietro la sua scrivania, a parte che mi conosce da anni, come tutti i medici dovrebbero fare, no? È per questo che, anche se vivo in una città a 40 km da casa mia, continuo a mantenere il medico che ho a casa mia da quando ero bambino. Per questo motivo, quindi, delle volte non mi faccio curare, invece delle volte vado apposta, perché è come tornare a casa, andare dal proprio medico. È come andare lì e raccontargli delle cose che rimettono insieme i pezzi dell'ultima volta che lo hai visto. E questo, in questo devo dire, il mio medico è bravissimo, perché si siede lì, mi chiede come sto e mi fa raccontare. E ovviamente vengono fuori delle cose che vanno al di là dell'influenza, cioè del pigliati un'aspirina. Anzi, spesso e volentieri lui non dà niente, proprio non te lo prescrive, perché ti fa dire 33, appunto, che è una cosa magnifica, che lui ancora, questa cosa ancora è fantastica, perché ci saranno degli altri metodi, no? Per capire se c'hai la tosse o se c'hai la raucedine. E invece no, ti fa sedere, ti fa togliere la maglietta, dica 33, fai vedere la lingua. Per cui quella roba lì è rassicurante, ma la cosa più rassicurante è un'altra. È proprio quella che il medico ti ascolta. 800240024 349-238-6666. Oggi mi piacerebbe sentire i medici. I medici che fanno questo per l'80% del loro lavoro, è che stanno a sentire le persone. L'anno scorso ho venduto, durante il programma che si chiamava Vendo Tutto, ho venduto un porta CD. Questo porta CD lo acquistò un signore molto simpatico e molto garbato, lo si capiva già da come scriveva nelle mail, ma che poi venne a prenderselo fisicamente, questo porta CD. Si chiamava, io credo, Giovanni, e se Giovanni è all'ascolto, chiama l'800240024 oppure manda un messaggio e ti richiamiamo noi, 349-238-6666, perché Giovanni era un medico ed è, immagino, di Lodi. Lui mi disse che ascoltava il mio programma e gli piaceva l'idea che io raccontassi delle storie, e diceva che a questa cosa lui era particolarmente abituato proprio per quel motivo lì, proprio perché le persone, quando andavano da lui, non avevano tanto bisogno di dirgli che stavano male, avevano proprio bisogno di raccontargli le loro storie. Ed è per questo che vorrei capire, tutti quelli che fanno mestieri come i medici, come gli infermieri, sono arrivati dei messaggi prima sul profilo Facebook, c'è un sacco di gente che fa un mestiere ma si occupa veramente per il 70-80% di ascoltare le persone. Sono i medici, sono gli infermieri, sono i dentisti addirittura. Mario mi scrive: io sono un odontoiatra, che non credo, è la stessa roba, no? L'odontoiatra e il dentista, più o meno, boh, di là nessuno lo sa, molto bene. Io sono un odontoiatra e molte volte le persone, quando si stendono sulla poltrona, si sentono anche un po' sotto analisi, o comunque portano in superficie le nevrosi e le fobie. Chi ha un problema, mi scrive lui, dentale o di salute in genere, cerca come prima cosa una risposta, poi un sollievo e infine una cura. 800240024 349-238-6666. Addirittura un erborista mi scrive: io faccio l'erborista laborista e ascoltare per noi è fondamentale. Sandra anche, io da farmacista confermo che noi dobbiamo ascoltare tutto il giorno, virgolette, quelli che vogliono essere ascoltati, che decidono di venire qui direttamente, oltre a quelli che i medici non ascoltano perché non hanno tempo. E poi Manuela mi scrive: se vuoi essere ascoltato devi andare da un omeopata, e lì è nata tutta una bagarre sull'omeopatia, sull'essere ascoltati o avere prescritto una goccina e far finta di aver prescritto un medicinale. Ma non è questo quello di cui voglio parlare oggi. Vorrei parlare con medici, oppure con infermieri, oppure con dei baristi anche. Vabbè, il barista è un po' da sempre che fa quella roba lì, che dice di ascoltare. Ma anche i bancari, ad esempio. Prima ne parlavamo con Tiziano, che è stato in banca stamattina, e questo è accaduto, che si è messo a raccontare al tizio a cui devi dare dei soldi in mano e gli racconti parte della tua vita. 80024 0024 349 238 6666. Ho passato gli ultimi due giorni a montare mobili e ho scoperto che Matteo diceva bene quando diceva che l'IKEA ha sempre ragione. Quando ti appresti a montare un loro mobile, tu devi mettere da parte le tue convinzioni sul libero arbitrio. Eppure le tue velleità di montatore provetto. Devi solo aprire i libretti di istruzione e seguire i disegni con l'omino. Mentre montavo l'ultimo scaffale della Ivar, però, ho cominciato a sentire la testa come una clessidra. Avete presente, no? È una strana vita quella delle clessidre. Cioè, non fanno altro che essere usate a scadenza. Loro servono proprio a calcolare quello, la scadenza di qualcosa. E quando hanno smesso di farlo, è come se scadessero anche loro. Fino alla prossima volta, ovviamente, la volta in cui dovranno misurare altro tempo che è destinato a finire. Ecco, mi sentivo la testa come una clessidra che si sta svuotando e che stava scandendo la fine delle mie energie. Mi sono arrampicato sulla libreria per appenderci l'ultimo ripiano e quando sono sceso mi sono girato a guardare e la casa era già diversa. Sembrava più grande, o meglio, sembrava solo che ci fossero dentro delle cose che le davano più profondità, questa è la realtà. Cioè è come se l'occhio, incontrando degli ostacoli, riesca a percepire meglio lo spazio che c'è dietro a quegli ostacoli. Insomma, la casa mi sembrava più grande, ma soprattutto mi sembrava che si stesse muovendo, a che in realtà ovviamente era ferma. Solo che quello non era l'effetto dei mobili, era l'effetto della clessidra che mi stava svuotando la testa. Avete presente quando sta per venirvi l'influenza, no? Quel momento, non so come mai, per me però è un momento piacevole. Cioè, a meno che mi impedisca di respirare completamente, io l'influenza me la godo proprio, perché mi sento giustificato a non dover lavorare, a non dover uscire, oppure a non dover fare nulla di tutto ciò che un uomo adulto è dato per scontato che faccia. Posso rimanermene a letto, pensando che fuori il mondo sta correndo come al solito, mentre io sono schiacciato tra il materasso e il piumone, senza doverne rendere conto a nessuno. Anche la febbre la trovo quasi consolatoria. La temperatura corporea aumenta e io mi sento comodamente racchiuso in quel tepore lì. La mia fortuna è stata che avevo appena montato il letto e quando ho girato gli occhi e l'ho visto sono stato felice come poche volte in vita mia. L'unico problema è che avendo una casa piccola ho optato per un letto a soppalco in modo da avere un po' più di spazio e quindi in quel momento salire quella scala con 6 pioli mi pareva un'impresa da addestramento per i Marines. Mi sono tolto le scarpe, ho preso una coperta e ho iniziato l'arrampicata. Mentre salivo con la destrezza di un panda, ho pensato che se avessi perso l'equilibrio e fossi caduto all'indietro, probabilmente sarei morto sul colpo. Mi avrebbe trovato Tiziano Bonini il giorno dopo allarmato perché ero in ritardo per la diretta. Pensavo che non era un bel modo per essere ritrovato. A terra, con le gambe scomposte e gli occhi spalancati. Ma mentre pensavo a tutto questo, avevo raggiunto la mia vetta, finalmente. Le mani sono affondate nel materasso, ho giusto trascinato il corpo sul letto quanto bastava perché si adagiasse in maniera scomposta. Ho appoggiato la testa sul cuscino e mi sono addormentato. E quando mi sono svegliato, non respiravo più. Che non è una bella sensazione non respirare. Cioè, sono in pochi quelli che la provano davvero e che poi la riescono a raccontare. Non parlo di trattenere il fiato, io parlo proprio di rimanere senza aria, non averne più a disposizione. Ecco, di solito succede sott'acqua, oppure sui treni per i pendolari delle ferrovie dello Stato. Nel mio caso, invece, ero nel mio letto, ma dalle mie narici non passava un filo d'aria. Mi sono svegliato boccheggiando con le labbra spalancate. in un atto estremo di autosopravvivenza. La gola mi faceva male solo a muovere la lingua. Deglutire era un'impresa quasi eroica per il dolore che causava. Mi sono alzato per bere un goccio d'acqua, ma mi sembrava di pesare 500 kg e sono ricaduto sul letto. Sentivo scariche di brividi lungo la schiena. Il mio fato era rovente. Mi sono avvolto nella coperta come in un bozzolo. E in quel momento lì mi sono ricordato qual era invece il lato negativo dell'influenza. Che quando ti ci trovi dentro e sei nella fase acuta, la sensazione è che non sei mai stato così male. E che questa volta qua non passerà. Cioè, ti sembra impossibile potersi riprendere fisicamente se non hai la forza di alzarti, se la tua fronte è scotta come la marmitta di una vespa, l'unica cosa che vorresti fare è perdere i sensi lì dove sei. Ecco, questo aspetto qua, quello della guarigione impossibile, è quello peggiore dell'influenza. E pensare alle grandi guarigioni esemplari in quel momento non ti serve. Cioè, non ti aiuta a pensare alla lotta di Lance Armstrong contro il cancro o a Alex Zanardi che guida e corre senza le gambe, perché tu in quel momento lì stai molto peggio. Hai quasi 38 di febbre, hai le placche in gola e senti una sirena nelle orecchie. Solo che la sirena non si capisce che problema sia, perché non è che hai male alle orecchie. Allora provi a concentrarti e realizzi che quella non è una sirena, è solo il cellulare che sta suonando. Pronto? Sì, Matteo, ciao, sono io. Io chi, scusa? La Simo. Ehi, ciao Simo, come stai? Bene, tu? Io no, per niente, guarda, sto per niente bene. Oh, signor, cosa ti è successo? Ma non lo so, mi sa che ho la febbre, un po' di influenza, non lo bene, so. Bene, allora, non ti muovere, io arrivo subito. No, come bene, scusa, no, Simone, aspetta, lascia stare, guarda, non ti disturbare, sto già a posto così. No, ma guarda, io non mi disturbo, vengo volentieri. No, Simone, guarda, non, aspetta, non hai capito, sono io che non ti voglio, se non no, ti disturbo. No, Matteo, sei sempre il solito, ma dai, 20 minuti e sono lì. No, Simone, guarda, per piacere, davvero, lascia stare. Matteo, ascoltami, passo in farmacia. Tu non fare niente, arrivo tra 20 Simona, minuti. Simona, scusami, guarda, forse te lo devo spiegare meglio. Stai diventando un po' invadente, sinceramente. Simona? Sedici 21, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia, 800 24 00 24, 349 238 6666. Perché c'è un altro mestiere, mi è venuto in mente adesso, c'è un altro mestiere in cui pare che vengano fuori delle cose e delle storie incredibili, di storie personali. Qualche anno fa tornavo da una vacanza in traghetto, un traghetto che tornava dalla Sardegna, faceva Olbia, Genova, e ho incontrato un tizio che avrà avuto più o meno 45 anni, di Aosta, che faceva il tatuatore. E non sembrava un tatuatore, cioè adesso non so quale aspetto possono avere i tatuatori, però banalmente un tatuatore si aspetta abbia un tatuaggio. Lui non ce li aveva, perlomeno non visibili. Sembrava veramente più un impiegato delle poste. E quando ha cominciato a raccontarmi che faceva il tatuatore, e quindi abbiamo parlato dei tatuaggi che faceva, di come la gente glieli chiedeva, di che tipo di disegno aveva bisogno, e spesso il fatto che lui non li faceva i tatuaggi, cioè se le persone non erano completamente convinte, diceva guarda, torna quando hai veramente voglia di lasciarti un segno che ti rimane per tutta la vita sulla pelle. Insomma, a un certo punto lui mi ha detto che la cosa più assurda che gli capitava era che forse per via del dolore, non si capiva, o del contatto fisico della sua mano con l'inchiostro sulla pelle, le persone che facevano tatuaggio durante quell'ora o quelle due ore che lui lavorava sulla loro pelle, gli raccontavano di tutto, storie personali, ma cose mai venute fuori prima e che loro stesse ammettevano fosse la prima volta che le raccontavano. Quindi se ci fosse anche qualche tatuatore all'ascolto e ha voglia di raccontarci una di quelle storie, 800 24 00 24, oppure 349 238 6666. Intanto Gigi mi scrive: ciao, sono sulle volanti da 20 anni e i richiedenti, che sono le persone che chiamano, ultimato l'intervento al 113, ti raccontano di tutto e di più, potresti scrivere una collana di libri. Gigi, facci un pensiero. Simone o Simone, probabilmente anche le estetiste raccolgono i racconti delle vite altrui, però se è Simone sarà Simon. No, anche Simon è maschile. Io faccio l'amministratore di condominio, sapessi quante ne sento, ed è una delle cose più belle e faticose del mio lavoro. Angelo, Riccardo Udine, scusate, ma qualcuno ha idea a che cosa diavolo serva dire 33 dal medico? Perché per me non ha alcun senso. Da aggiungere alle cose che detesto e lo dico, giusto? Questo fa parte della rubrica che è un po' che non la facciamo. Dobbiamo tornare, ne parlerò con Alessandro Marco Tulli. Meccanico ciclista, mentre sistemo la bicicletta, mentre sistemo loro quella che è la loro vera amante, cioè la bicicletta, mi raccontano le beghe con mogli, fidanzate e figli. Anche i preti, vabbè, anche i preti, però quello è il loro mestiere, cioè di mestiere fanno quello i preti. I barbieri sono dei veri psicologi. E poi questo messaggio a cui chiedo di mandare un altro per spiegarmi. Aspetto, Matteo, che tu prenda le distanze da quello che sarà detto ieri. Ho mandato vari messaggi, sii onesto. Guarda, fammi capire che cosa è stato detto ieri, ma forse ho un'idea, forse ce l'ho, quella dei grulli e dei grullari. Vabbè, credo che sia quella, comunque confermalo. 800240024 349-238-6666. C'ho il tempo di prendere già subito una telefonata, allora andiamo a Napoli da Marianna. Pronto Marianna? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Ciao, io bene, il caso di dire tu come stai? Questa non è male. Io sto così così, ma poi passa tutto, no? Certo, certo. E tu lo sai, perché tu sei una... logopedista. Una logopedista. Esatto. La logopedista. Una terapista del linguaggio e qualcos'altro, dai. Quindi spieghi esattamente cosa fa un logopedista, Marianna, perdonami. Dunque, il logopedista si occupa di tutti, della riabilitazione di tutti i problemi di voce, di linguaggio, disturbi cognitivi, tutto ciò che riguarda la sfera della comunicazione e della deglutizione e in particolare del linguaggio. Quindi scusami, detto per le persone che non ne capiscono nulla come me, ad esempio una persona balbuziente anche, viene da te, immagino, anche. Ma anche viene persone che... balbuziente, un avvocato che ha problemi di voce come un pescivendolo. Ah, quindi persone che poi in realtà hanno problemi anche proprio alle corde vocali, abbassamenti vocali, cose di questo tipo. Però immagino che le persone ti raccontino delle cose perché tu hai a che fare col linguaggio proprio. C'è una continuità con loro e quindi insomma c'è una relazione d'aiuto, per cui loro tendono a confidarsi moltissimo con i terapisti. Ma quindi è perché proprio questa necessità di aiuto, cioè io devo venire da te perché ho un problema, perché anche il tizio che fa il dentista diceva, la persona quando ha un problema di salute e ha bisogno di qualcosa cerca innanzitutto una risposta a qualcosa. Esattamente. La differenza con il terapista è che ci sono tanti appuntamenti prolungati nel tempo e quindi c'è un rapporto che si viene inevitabilmente a creare Mi racconti una volta in cui veramente uno ti ha raccontato una storia che era impensabile, che non ti aspettavi? Di impensabile c'è poco, devo dire, ormai dopo tanti anni ti abitui. Però per esempio ricordo tanto spesso di un signore che aveva avuto un ictus, che era da me per problemi di linguaggio, il quale mi confidava che lui i farmaci per la prostata non li prendeva perché gli procuravano problemi con la sua compagna. Sì. E quindi non aveva assolutamente intenzione di privarsi di questa sua sfera affettiva e anzi prendeva tutt'altri farmaci che probabilmente poi secondo la figlia erano la causa della... Chiaramente tutto ciò senza che tu fossi un'urologa, Marianna. No, grazie mille. Diciamo che lavoravo su tutt'altro. Grazie mille, Marianna, buona giornata. Ciao, alla prossima. Andiamo, sì dai, prendiamo un altro volo prima della borsa. Andiamo a Firenze da Marco. Pronto Marco? Ciao, come stai? Che lavoro fai, Marco? Beh, agente immobiliare. Oh, finalmente. Agente. Allora dimmi che hai su quella cravatta. No. Non hai su la cravatta col nodone? No, assolutamente, sono sui generis. Dimmi come sei vestito però, Marco. Jeans, camicia. Ah. Tranquillo. Senti, e anche tu hai a che fare con gente che ti racconti i fatti propri. Ma infatti io ho telefonato proprio per dirti questo. In realtà penso che non si tratti di dottori, fisioterapisti, possono avere confidenze delle varie persone, ma con tutte le persone che hanno un po' a che fare col pubblico, perché penso che ultimamente le persone hanno bisogno proprio di parlare, di ma fammi un esempio di uno che viene a prendersi un bilocale e cosa ti ha raccontato? A parte il bilocale, ma ti possono raccontare dai guai familiari, dalle come hai subito te, diciamo, dai divorzi. Beh, ora te non credo abbia divorziato, però comunque delle cose più disparate. Più impensate. Senti Marco, cosa hai venduto oggi? No, oggi ho affittato. Cos'hai affittato? Oggi ho affittato un appartamento in centro. Per quanto al mese? 650 euro. A Firenze? A Firenze. Beh, buono 650 a Firenze, ma grande quanto? Sono tre stanzine, ma sai, se non hai cose buone, oggigiorno non fai nulla. Beh, però tre stanzine 650 a Milano ha voglia. Ma guarda che bisogna trattare un po' i prezzi, perché penso che che se ne dica anche in TV, il mercato ne risente parecchio. Guarda Marco, ti devo salutare, altrimenti mi metto a raccontarti i fatti miei, non mi sembra il caso. Grazie, buona giornata. Ciao. Grazie Marco. Pure, grazie a te. Adesso sentiamo la borsa e poi io sono qui. Nella foto c'è un ufficio, però non è un ufficio ordinario. Sembra più la biblioteca di un ufficio. Sulla sinistra c'è una parete, anzi un mobile appoggiato a una parete che è pieno di libri che sono tutti simili, quindi potrebbero essere o enciclopedie o raccolte di qualcosa di particolare, però tutti hanno la stessa altezza, quindi sono praticamente gli stessi libri, probabilmente catalogati per anni o per epoche diverse. E tutte hanno in basso il segno della biblioteca, quindi è chiaramente la biblioteca, ma non è una biblioteca di una città, è proprio la biblioteca di uno studio, probabilmente di un avvocato o di un notaio. La parete è piena e di fronte ci sono una, due, tre, quattro scrivanie. Sì, no, sono tre scrivanie. Tre scrivanie e tre computer, con due sedie davanti. Sul pavimento sembra cotto. È strano perché c'è un misto di roba antica, come i mobili, le scrivanie e la biblioteca, e anche le finestre, e poi della roba moderna, tipo un pavimento abbastanza brutto, devo dire. Non è legno, credo sia un finto cotto. E sulle scrivanie, fogli, faldoni e fogli. E ovviamente, computer. Io sono Ursi Gandursi, ho 50 anni, oggi sono qui, domani non v'è certezza. Io sono qui. Com'è che si chiama? Ulfi Gandolfi? Ma è il suo nome, Vittoria? Ma Ulfi è il nome e Gandolfi sarà il cognome? Ok. Ulfi, se hai voglia di spiegarci da dove arriva questo nome, perché magari è solo un nomignolo, però invece, insomma, Ulfi. 800240024 349-238-6666. Massimiliano scrive: io vendo telecomunicazioni, ma tra cene e confessione dei clienti dovrebbero darmi laurea honoris causa in psicologia e 4 stelle Michelin. Sono un promotore finanziario. E vabbè, qui, dopo che un cliente ti ha affidato dei soldi, diventi il suo confessore. Io sono un autista di linea e tutti i giorni mi sembra di essere uno psicologo. Ne sento di ogni. Ciao, Christian da Brescia. Visto che siamo sul pezzo, mi pare che ci sia tra gli ascoltatori proprio una persona che fa l'autista. A Napoli, Vittorio. Pronto, Vittorio? Sì, ciao Matteo. Ciao. Ti senti malissimo. Mi senti male? È abbastanza lontano, ora forse meglio. Ora un po' meglio. Adesso parliamo piano così ci sentiamo meglio. Tu cosa fai? Fai l'autista, Vittorio, o il tranviere? Sì, l'autista degli autobus. A Napoli? Tranviere a Napoli. Scusami, ma non è vietato parlare al conducente dell'automezzo? Dell'automezzo. Puoi ripetere, scusami. Ma non è vietato parlare a chi guida i pullman? Appunto, certo che è vietato. Però? Però ora sono quasi fermo perché ho finito la corsa e sono quasi arrivato al capolinea. Ah, ma tu in questo momento stai guidando? Certo che sto guidando. Ma scusami, come l'auricolare tu? Ah, ok, ma e la radio l'ascolti con l'auricolare? Senti, ho comprato un telefonino, te la dico tutta. Vai. 3-4 anni fa. Sì. Per ascoltare appunto Radio 24. Perché prima l'ascoltavo a casa, però poi insomma mi sono organizzato e ho comprato un telefonino con la radio e per ascoltarvi anche durante il servizio. Vittorio, quindi puoi ripeterlo ad alta voce, questo è un grande spot per questa radio. Tu hai comprato apposta un telefonino per ascoltare Radio 24 mentre guidi il pullman. Assolutamente, perché spesso a causa dei turni sono costretto insomma a lavorare in vari orari. È chiaro. Senti, che pullman insomma, guidi, Vittorio? Da dove vai? Dove... Senti, ora sono partito da Capo Posillipo, arrivo a Santa Lucia, un quartiere di Napoli, sì. E poi ritorno indietro, attraversando via Caracciolo, insomma tutta la zona panoramica di Napoli. Ah, la zona bella di Napoli, cioè sì, per la mia, tutta sì, bella, mia, città bella con molti problemi, però è meglio non parlarne ora. No, infatti figurati, non mi addentrerei mai. Senti, e che cosa ti dice la gente mentre stai guidando? Io spesso, ma quasi sempre, sono una persona che mi piace molto ascoltare. Sì. E credo che in quest'epoca sia difficile trovare gente che ascolti. Tutti vogliono parlare, ma nessuno ascolta. Guarda, Vittorio, questa cosa non sei il primo che la dice, però di fatto dai messaggi che mi arrivano io direi che c'è un sacco di gente che ascolta, perché tutti sostengono che la gente abbia voglia di parlare. Forse sono appunto tutti quelli che stanno ascoltando chiamano, allora probabilmente fare un po' di pubblicità, a parte gli scherzi. Effettivamente a me capita spesso che magari si avvicina anche magari spesso anziani, che a volte basta uno sguardo che loro capiscono che magari possono, persona che può ascoltare. Certo, chiaro. Vittorio, senti, io ti lascio alla tua guida. Mi dici solo l'ultima cosa, visto che tu sei proprio un ascoltatore tipo di Radio 24, giusto? L'ascolti dalla mattina. Sono molto fiero di esserlo. Io, guarda, lo sono ancora di più. Mi dici però a questo punto qual è il tuo programma preferito di Radio 24? Vittorio. Guarda, prima che ascoltassi te era la Zanzara. Sì. E poi da quando, insomma, anche quando facevi l'altro programma in primavera, vendo tutto, sì. Ero, insomma, Vittorio, mi basta così, guarda. Mi basta così, Vittorio. A posto, Vittorio. Grazie mille e buon lavoro. Ciao, alla prossima. Ciao Vittorio, grazie. Andiamo a Milano da Matteo. Pronto Matteo? Sì, ciao. Ciao, come stai? Ciao, omonimo, piacere. Ciao, omonimo, piacere. Tu gestisci un pub? Sì, esattamente. Dove? Nella provincia di Milano. In provincia, zona di Rho. Ma di dove, Matteo? Chi se ne frega? Vogliano milanese. Oh, perfetto. Ed è un pub avviato, per cui c'è un sacco di gente, oppure... Sì, c'ho un po' di gente, può dire, tantissimi ragazzi giovani. Ma che sono abitué del locale? Sì, abitué. Essendo in provincia, i locali sono molto frequentati da abitué. Ed è vera sta storia che il barista è un confessore o no? Assolutamente. Ma però, sì. Scusami Matteo, visto che questo è chiaramente un luogo comune, no, del barista confessore, fammi un esempio di una cosa che ti hanno raccontato. Sono mille gli esempi, tra cui la vita privata di una persona, oppure i problemi economici, oppure problemi lavorativi. Sì, ma te ne ricordi uno? Chiaramente non facciamo il nome. Ieri sera, l'altra sera, uno che ti ha detto una roba sulla moglie, sul marito. Essendo di un paese, non ti faccio un esempio particolare, però ti posso dire di un tradimento avvenuto con l'amico del marito. Ok, vabbè, cose molto banali, molto sì, un po' la solita roba, diciamo. Esatto. Però tu stai lì ad ascoltare e sei obbligato. Ti vedono, sei obbligato, soprattutto nei momenti dove c'è calma, e soprattutto ti vedono come uno sopra le parti, e quindi pensano che tu possa essere per loro Ma scusami Matteo, e poi ti lascio andare, ma loro vogliono solo che tu li ascolti o vogliono dei consigli? Vogliono anche dei consigli. Vogliono dei consigli, perfetto. Anche dei consigli. È per quello che poi chiaramente il mondo occidentale va alla deriva. Grazie Matteo, buona giornata. Grazie. Ciao, alla prossima. Andiamo a Barletta da Giuseppe, giusto? Giuseppe? Sì, buonasera, ciao. Ciao, buonasera, come stai? Bene, grazie, tu? Me la cavo. Che mestiere fai tu, Giuseppe? Il giornalista. Il giornalista per che cosa? Per un giornale? Per la Gazzetta del Mezzogiorno. La Gazzetta del Mezzogiorno, ma sei inviato oppure... No, sono quindi... una redazione decentrata a Barletta, perciò sono a Barletta. Ah, ok. E scusami, è giornalista, chi è che sta a ascoltare? I colleghi oppure... Il giornalista ascolta anche gli altri colleghi, certo, e soprattutto ascolta tante storie impensabili, nel senso che vengono per raccontare di un problema che può essere, per esempio, quello... dei cassonetti sotto il balcone, e sì. Si apre uno scenario di uno spaccato familiare che c'entra poco con la notizia da utilizzare. Ma scusi, ma perché? Cioè, non capisco quale sia il collegamento. Se io vengo a dirti che bisogna scrivere che i cassonetti sono pieni, poi come arrivo a dirti che invece mio figlio va male a scuola o sa che? Questo io non lo so, so solo che nell'ambito della necessità di parlare, di farsi ascoltare, mi è capitato tante volte anche questo tipo di occasione, insomma, mi sembrava bello riferirla. Certo, Giuseppe, scusami, qual è l'ultima notizia che hai scritto oggi? Di cosa si parla oggi? Allora, ieri, quello che scriverò su domani, dovremmo affrontare il problema di una proposta fatta dalla provincia di Barletta Andrea Trani di sponsorizzare. Abbiamo perso. Niente, già, però mi sembrava che fosse interessante che c'è una provincia che è Barletta Andrea Trani, che io prima di oggi non avevo mai sentito. Giuseppe, se è andata, ci sentiamo un'altra volta. Andiamo invece a Novara da Michele. Pronto Michele? Buonasera. Ciao, buonasera, come stai? Buonasera. Bene, benissimo. Tu sei un medico finalmente? Sì, sono un cardiologo, a dire la verità. Cardiologo, però non operi, quindi il cardiologo non sei un cardiochirurgo? No, sono un cardiologo. E quindi che, esattamente il cardiologo in che fase entra della cura, della terapia? Per quanto riguarda i pazienti chirurgici, prima e dopo l'intervento. Sì. Per quanto riguarda gli altri pazienti che non hanno bisogno di interventi chirurgici, nella fase della diagnosi, se necessario, della terapia e del monitoraggio successivo alla terapia, che è la parte cosiddetta ambulatoriale. Senti, tu hai sempre fatto il cardiologo o hai fatto anche altri tipi di specializzazione? Ho fatto per 10 anni il medico di base, cioè il medico di famiglia. Hai notato una differenza tra fare il medico di base, quindi avere a che fare con persone che hanno malattie generiche o di ogni tipo, e invece persone che hanno problemi al cuore, riguardo proprio la confessione, riguardo a raccontarti la loro vita? Possiamo dire che sono due professioni quasi completamente diverse. Perché il medico di base, detto anche come si diceva una volta, medico di famiglia, conosce il paziente, conosce la famiglia dove vive il paziente, quindi viene a contatto con una realtà che è molto più profonda e articolata rispetto a quella che Michele, riguarda un medico, diciamo, specialista, che si occupa un po' di una parte più, anzi molto più limitata rispetto al medico di base. Michele, te la ricordi una storia veloce da raccontarmi di una persona che ti ha confessato una cosa che ti è rimasta impressa? Ma in questo momento no, le situazioni sono numerose, perché si tratta di pazienti che spesso purtroppo devono confrontarsi con malattie particolari, tipo, non so, l'AIDS o malattie, tumori in fase terminale, quindi sono situazioni estremamente... Vabbè, quindi in quel caso è chiaramente più facile avere delle cose da raccontare, perché sì, diciamo il nervo è completamente scoperto. Esatto, c'è una parte umana che è così articolata, così poliedrica, che in questo momento non mi viene in mente. Chiaro, però insomma, però è evidente che è una situazione particolare. Michele, particolarissimo. Ti ringrazio molto, buona giornata. Ciao, grazie. Ringrazio anche Massimo, che non sono riuscito a sentire, anche l'ascoltatore che invece avevamo chiamato da Facebook, ma ci sentiamo un'altra volta, tanto erano storie di questo tipo. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile il programma oggi, in particolar modo Vittoria Mussini, Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Laura Vanossi. Oggi io ho preso una tachipirina e sto meglio, ho bevuto 2 spremute, ho sentito un paio di medici, o forse di più, e ho capito soprattutto che cos'è l'ipocondria. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?